Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Come vi ho già annunciato nel corso del giornale radio, oggi torniamo a parlare di mercati finanziari. Perché forse nelle ultime settimane, a furia di osservare la crisi europea, il termometro dello spread, abbiamo trascurato quegli ascoltatori che invece, anche se sono un po' scoraggiati dalle performance, continuano a puntare sul mercato azionario, in particolare sulle società italiane, per questioni affettive, per chi punta sui dividendi, per chi opera una diversificazione con i titoli di Stato e continua a credere nel mercato domestico, nonostante i venti tempestosi che ci hanno riguardato direttamente, soprattutto nell'ultimo anno. Tra l'altro, proprio in questo periodo, un anno fa, lo ricorderete, cominciava a consumarsi la drammatica crisi di governo che portò poi alla formazione dell'esecutivo tecnico guidato da Mario Monti. L'obiettivo, anche con questo cambio di guardia così repentino, drastico, era quello di riportare la calma sui mercati, perché da settimane gli investitori di tutto il mondo avevano preso, lo ricorderete bene, la calda estate scorsa, non quella di 3 mesi fa ma quella dell'anno scorso, presero appunto a liberarsi dei titoli di Stato italiani. Le agenzie di rating hanno cominciato a tagliare ripetutamente il rating appunto del nostro paese e la borsa si comportava di conseguenza. In questo momento qual è la situazione? La crisi, lo leggete sui giornali tutti i giorni, noi ve la raccontiamo, è tutt'altro che passata. L'Europa stringe d'assedio la Grecia e la Spagna affinché rimettano in sesto i conti e anche il nostro paese prosegue la sua strada per rispettare gli impegni europei. Abbiamo una nuova legge di stabilità da ieri con misure che hanno già registrato generali prese di posizione non complessivamente positive, anche perché comunque abbiamo ancora molti sacrifici da fare. In tutto questo contesto, Piazza Affari cosa fa? Si muove in linea con il resto d'Europa? Non del tutto, complessivamente sembra di sì, perché a giornate di rally come quelle che ad esempio hanno seguito gli annunci di interventi straordinari sul mercato da parte della Banca Centrale Europea, seguono poi immediatamente giornate di ribassi o prese di profitto, chiamiamole come vogliamo. In ogni caso l'altalena prosegue senza una direzione precisa. Guardando però le prestazioni dei singoli indici europei nell'ultimo anno, notiamo che invece delle direzioni precise ci sono, perché per esempio la piazza di Francoforte guadagna oltre il 22%, Milano è in rosso invece di quasi 4 punti. E non solo per colpa delle banche piene di BTP, ma anche per molti altri titoli del settore industriale che sono trascinati a ribasso dalle dinamiche macroeconomiche internazionali che rallentano molte prospettive di business. E allora noi oggi faremo un po' un punto della situazione su Piazza Affari, cosa succede, che tipo di prospettive ci sono anche da qui alla fine dell'anno. Ne parleremo con Salvatore Gazziano, direttore di moneyreport.it. Salvatore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Pierluigi Nodari, in studio con noi, Senior Investment Consultant di Credit Suisse. Ho detto tutto correttamente? Correttamente. Buongiorno, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Al telefono abbiamo anche Roberto Contini, responsabile della direzione advisory di Banca Intermobiliare. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a tutti. Come sempre, microfoni aperti agli ascoltatori. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. Avete anche l'alternativa degli SMS, ce li potete scrivere al 349-238-6666. Ci potete scrivere le vostre mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, e Marco Lombardo ha cominciato già a twittare anche su Twitter @salvadanaio24 è invece il nostro indirizzo in questo caso. Allora, borsa in prospettiva, mercato italiano in prospettiva, e oggi che cosa succede? Succede che questa mattina è arrivata ancora una volta Standard & Poor's, che ha emesso un nuovo verdetto sulla Spagna, e naturalmente i mercati in avvio ne hanno risentito immediatamente. L'Ibex 35 è partito con un ribasso di un punto, Milano perdeva lo 0,6%, le altre piazze erano sulla parità, poi a metà mattinata ci hanno ripensato e hanno detto: ma sai che c'è? Ancora una volta lasciamo da parte quello che dice l'agenzia di rating e cambiamo direzione, e adesso sono tutte positive, Milano compresa. Più 0,14% sul FTSE MIB, Parigi più 0,51%, Francoforte più 0,67%, Londra più 0,39%. O c'è stato un rimbalzo oppure gli investitori hanno cominciato a guardare altro. Non che le prospettive mediamente siano cambiate, stamattina anche il bollettino mensile della Banca Centrale Europea ha parlato ancora una volta di una prospettiva di ripresa per l'Eurozona molto lenta, molto graduale, ma questa è insomma una condizione che conosciamo. E ieri sera

tutti i BTP che aveva in programma di vendere, i triennali, per 3 miliardi 750 milioni di euro. Ieri botta 3 mesi a un anno, lo stesso un'asta ben riuscita, però il mercato ha chiesto tassi più alti, mentre negli ultimi mesi eravamo di nuovo ritornati su un sentiero un po' più virtuoso, più rassicurante quantomeno per le casse dello Stato. Dobbiamo preoccuparci di questa piccola micro tendenza rivista ieri e oggi? Ma direi assolutamente di no, soprattutto alla luce delle cattive notizie che sono arrivate nella mattinata, cioè il downgrading da parte di S&P sulla Spagna. Direi che tutto sommato il risultato è stato positivo. Chiaramente nell'arco di breve ci possono essere dei movimenti di su e giù, degli spread che però non inficiano il quadro complessivo che noi in Credit Suisse riteniamo essere piuttosto positivo per il nostro paese rispetto per esempio anche alla sola Spagna, nel senso che noi siamo molto più avanti nel piano di rientro del deficit e oggettivamente non abbiamo tutto questo bisogno. L'allargamento dello spread di oggi quindi lo rilegherei sostanzialmente in un movimento meno positivo del mercato in questa fase, dopo diciamo gli annunci della banca centrale e dopo quanto si è fatto negli ultimi mesi. È evidente a tutti che in queste ultime settimane c'è un po' più di presa di beneficio ed è ovvio che si ripercuota anche sugli spread, quindi la nostra opinione è nessun allarme assolutamente. L'andamento della borsa italiana, l'andamento della borsa europea, poi anzi ci fermiamo appunto a Piazza Affari, magari una domanda successiva. Secondo lei riflette la condizione macroeconomica come mediamente succede, oppure secondo anche quello che mi hanno raccontato alcuni gestori che non sono presenti questa mattina ma che ho avuto modo appunto di sentire anche preparando questa trasmissione, stiamo notando un allargamento tra l'andamento dello scenario macroeconomico e l'andamento invece della finanza rappresentata in borsa? Come mai c'è questa forbice? Allora, innanzitutto il nostro mercato sicuramente rispetto ai mercati diciamo dei paesi core è sottovalutato, ma perché c'è un rischio paese. Quindi complessivamente il nostro indice sconta il fatto che noi come paese abbiamo un rischio superiore. Chiaro, condivido quello che diceva il collega dicendo che ci sono dei corporate, cioè delle aziende italiane che hanno una vocazione legata all'export e in questo caso oggettivamente si fa fatica a pensare che queste società siano legate all'andamento del consumo interno ed è per questo che hanno avuto una performance. Ma se dobbiamo giudicare l'indice nel suo complesso è evidente che è lo spread, lo possiamo dire anche così, che è lo spread paese che pesa in negativo ed è per questo motivo che se ci fosse un forte rimbalzo da parte del nostro mercato probabilmente questo coinvolgerebbe i finanziari che sono esattamente nel cuore del problema. Quindi per arrivare al quadro macro è evidente che le nostre società hanno grosse difficoltà, maggiori difficoltà rispetto alle società dei paesi core per almeno due motivi. Il primo è che si devono finanziare a tassi molto più alti, perché dobbiamo ricordare che non solo il governo si finanzia a questi tassi, ma questo tasso è il punto di partenza per tutti i corporate, che siano più o meno buoni. Quindi difficilmente esistono dei corporate in Italia che riescono a finanziare a tassi più bassi, se non le società appunto che non hanno nulla a che vedere con l'Italia o società che hanno degli asset come possono, che ne so, essere Terna, Enel e Eni. E il secondo aspetto è che chiaramente il nostro governo rispetto agli altri governi ha attuato una serie di politiche restrittive che hanno un effetto evidente sulla domanda. Pensiamo all'aumento delle tasse, questo sicuramente basta e avanza per capire che le nostre società, quelle che sono più vicine al consumo interno, sono in una situazione microeconomica ma proveniente da un quadro macro molto più difficoltoso ed è per questo che sicuramente i nostri corporate hanno più difficoltà anche sul mercato azionario. Roberto Contini, vengo anche a lei adesso per un primo commento, poi andiamo già alla prima pausa della nostra trasmissione. Per la verità c'è un tema al quale non avevo pensato preparando la trasmissione, però ho fatto male, me l'ha suggerito appunto Salvatore Gazziano. Tutti questi scandali politici che stanno di nuovo ritornando alla luce e ci fanno di nuovo ritornare indietro negli anni, magari con una nuova Tangentopoli che adesso è anche un po' più pietosa degli anni passati, se consideriamo anche lo scenario delle famiglie italiane all'interno del quale appunto tutto questo sta calando. Ma secondo lei ci penalizzerà anche di fronte alla comunità finanziaria internazionale? Torneranno a tempestarci di vendite sui titoli di Stato anche a causa di questo? Contini, che ne pensa? Ha fatto questa riflessione lei questa mattina leggendo i giornali? Sì, la riflessione l'ho già fatta da un po' di tempo. È in atto sicuramente una nuova Tangentopoli, possiamo chiamarla con qualche altro nome, però il contesto è molto simile. Probabilmente quello che stiamo vedendo adesso è ancora una fase iniziale, perché insomma sono interessate soltanto alcune frange di consiglieri regionali e probabilmente diciamo abbiamo avuto un periodo in cui una parte del PIL se l'è mangiato la corruzione in generale in Italia, e quello in parte già apprezzato sui titoli in questo momento. Non si può dire che non sia già apprezzato, perché questi, diciamo, elementi che vengono fuori adesso comunque non sono del tutto improvvisi e inaspettati. È l'allargamento che potrebbe esserci e che potrebbe essere ancora da apprezzare sul mercato, perché finché si parla, insomma, di un consiglio regionale di una regione importante come Lazio, poteva essere una cosa isolata. Adesso è arrivato un problema di mafia e di corruzione in Lombardia, quindi la cosa si sta allargando. Se si dovesse allargare allo stesso livello del 1992, chiaramente si potrebbe ipotizzare anche lì un impatto sui prezzi, anche se il cambiamento che c'è stato nella compagine di governo è un po', secondo me, per gli investitori internazionali la cartina tornasole, e unire al fatto che un cambiamento di linea politica fa emergere anche delle cose che probabilmente prima c'erano ma non emergevano, ecco. Quindi potrebbe essere visto anche come una politica positiva. E naturalmente, affrontando nella prima parte della nostra trasmissione quello che abbiamo un po' voluto forzare come tema, il legame fra questa nuova Tangentopoli e magari il corso di borsa o l'andamento dei mercati obbligazionari, chiaramente gli ascoltatori ci si sono buttati a pesce commentando di tutto di più, e c'è chi ha anche ribattezzato quel fenomeno che stiamo vedendo, associandolo chiaramente anche alle fogne, che adesso leggerò se lo ritrovo. Il nuovo nome del fenomeno è Fognomopoli Marcia, e come dar torto a questo ascoltatore anche alla frustrazione che molti ascoltatori esprimono rispetto a quello che stiamo vedendo. Ritorniamo però in borsa, ai mercati finanziari. L'autunno di Piazza Affari, tra l'altro, volevo segnalare e ricordare che i colleghi di Plus 24 del Sole 24 Ore a questo argomento hanno dedicato una storia di copertina il 22 settembre, interpellando molte società di gestione, molti analisti finanziari e molti esperti per capire che cosa ne pensassero rispetto alle prospettive da qui alla fine dell'anno dei mercati. E molti sono positivi su Milano, vedendo addirittura la possibilità che il FTSE MIB possa raggiungere i 17.000 punti. Adesso è collocato a 15.004, almeno mi sembra, appunto, che addirittura la prospettiva sia rosea in questi termini. Anzi, però non mi ricordo se si riferissero, adesso devo controllarlo, al FTSE All Share. Forse in realtà era il listino complessivo che si analizzava, sì, perché qui siamo a 16.361, a 16.451 stamattina. Sto dando i numeri? No, speriamo di no. Salvatore Gazziano, volevo ritornare un po' a te. Tu hai modo di interpellare ciclicamente anche qualche esperto? C'è questo cauto ottimismo sulle prospettive del mercato italiano da qui alla fine dell'anno? Salvatore? Salvatore non ci sente? Non è che ce lo siamo perso, no? Forse con la telefonata abbiamo qualche problema, allora ritorniamo in studio con Pierluigi Nodari. Abbiamo ricordato prima come anche l'andamento positivo della borsa e la calma apparente, speriamo di no, ritornata sui mercati obbligazionari sia stata determinata nelle ultime settimane da questa grande liquidità che tutte le banche centrali hanno immesso sul mercato, dalla Federal Reserve, che ha ripreso ad acquistare titoli legati ai mutui, e vedremo se questo porterà ad un'altra bolla, alle iniziative straordinarie che in cantiere invece di esprimere la Banca Centrale Europea per i governi che ne faranno richiesta. Come vede, appunto, questo nuovo scenario che si è creato grazie a questo rafforzamento delle misure delle banche centrali? Allora, sicuramente le banche centrali sono intervenute un po' da tutte le in tutte le parti del mondo. Sicuramente in Europa il primo approccio è stato quello di fornire liquidità alle banche commerciali, e lo abbiamo visto fare ben tre volte con LTRO, che sostanzialmente sono dei finanziamenti a un tasso molto agevolato, cioè un tasso dell'1%, a fronte della consegna, si dice in gergo tecnico, di un collaterale, cioè di alcuni titoli che le banche consegnano a garanzia. Chiaro che le banche più deboli, cioè le banche dei paesi periferici, hanno fatto, tra virgolette, incetta di questa liquidità e in parte l'hanno utilizzata o per coprire degli scoperti o in certi casi anche per investire in titoli di Stato del paese stesso. Non perché lo abbiano fatto proprio di loro o spontanea iniziativa, ma con questa moral suasion, insomma, che arrivava anche dalle autorità, sono state un po' spinte a farlo, no? Sicuramente. Devo dire che sono state spinte, e se lo lo vedremo fra qualche tempo, il gioco si sarà chiuso profittevolmente, queste società sicuramente avranno fatto dei discreti utili, perché comunque in ogni caso nei momenti in cui hanno comprato i titoli di Stato i tassi erano anche più tondi rispetto a quelli attuali, quindi possiamo immaginare uno spread fra il 5% di un ipotetico tasso dell'uno che pagavano, significa un, in gergo tecnico si dice carry trade, cioè un guadagno del 4% sulla singola posizione. Questo quindi è la prima parte dell'intervento delle banche centrali. Quella invece annunciata a luglio è stata di carattere diverso, cioè sostanzialmente la banca centrale si impegna a comprare i titoli di Stato dei paesi che sono in difficoltà, questo perché la banca centrale dice il sistema di trasmissione delle politiche monetarie si è inceppato. Che cosa significa esattamente? Proviamo a immaginare due società che sono una a Berlino e una a Madrid, chiaramente hanno tassi diversi, ma com'è possibile? Tutto sommato abbiamo tutti e due la stessa banca centrale, questo perché esiste un premio al rischio associato alla Spagna che è molto elevato, quindi la banca centrale tende ad abbassare questo spread comprando direttamente i titoli di Stato. Quindi erroneamente molte volte si dice la banca sta facendo un aiuto di Stato comprando i titoli di debito, in verità il motivo per cui lo fa è perché il meccanismo di trasmissione della politica monetaria si è, tra virgolette, cito, inceppato. Quindi per questo motivo viene fatto, ed è questo è l'unico motivo per il quale i tedeschi non si sono ancora opposti in maniera totale a questo tipo di politica, come a loro piacerebbe fare, peraltro, come magari vorrebbero, ma in ogni caso in questo caso forse è stato non hanno avuto il coraggio, insomma, di mettersi in di traverso a queste operazioni, appunto, in maniera molto, molto forte, come avrebbero magari fatto in passato. Volevo ritornare un attimo alle situazioni di Piazza Affari, perché visto che il tema della trasmissione è l'autunno di Milano, e volevo chiedere appunto quali sono le prospettive di questa stagione secondo Roberto Contini di Banca Intermobiliare. Ho fatto prima qualche nome citando le società che si sono comportate da inizio anno peggio di tutte le altre: A2A, Mediaset e Unicredit. Al momento queste tre, tralasciando per un secondo i titoli bancari, andando appunto a queste altre due aziende, sicuramente non risentono Contini né della congiuntura economica internazionale che rallenta, quindi credo che Mediaset e A2A siano abbastanza disinteressate del fatto che la Cina consuma meno del previsto e che non traina più tutta l'economia mondiale. Cosa è successo a queste due aziende? Come mai hanno avuto queste bastonate così importanti dagli investitori? Beh, entrambe comunque sono molto correlate con l'economia italiana, perché sono due società essenzialmente domestiche. La raccolta pubblicitaria di Mediaset è crollata con il rallentamento economico e la minore predisposizione a investimenti pubblicitari da parte delle aziende italiane. In più anche dal lato costi hanno dovuto fare dei contenimenti che comunque sono stati fatti forse con un certo ritardo, e poi c'è stata la fortissima concorrenza con Sky, che adesso si è un po' fermata, perché ultimamente sostanzialmente sono divisi il mercato, però questo ha portato le valutazioni della Mediaset a livelli completamente diversi a quella che aveva qualche anno fa. Per quanto riguarda A2A c'è un grosso problema di indebitamento che è fuori controllo in questo momento, stanno cercando di ridurlo, ma non sono ancora riusciti a fare delle dismissioni sufficienti, a parte l'intervento che è stato fatto da parte della EDF sulla Edison, e poi risultati molto deboli, perché comunque la vendita di energia alle aziende è diminuita per il rallentamento economico che c'è stato nelle aree più importanti, la 2A, insomma, è fortissima in Lombardia, che è l'area industriale più importante d'Italia. Invece, sì, da un anno a questa parte è in pregiro la regina della Borsa di Milano, più 68%. Anche questa è una società che puntualmente compare su tutti i giornali, grandi bagarre all'interno della compagine societaria, il ponte sullo stretto, le autostrade Ecorodovias, che tra l'altro potrebbero essere, non mi ricordo bene se cedute o meno, quantomeno il controllo su questo gruppo. Comunque più 68% è giustificato di crescita. È una società interessante, Contini? Ma è giustificata la crescita a posteriori sicuramente, nel senso che i livelli di valutazione che aveva raggiunto l'anno scorso corrispondevano a poco più o grosso modo alla valorizzazione della capitalizzazione di borsa delle autostrade brasiliane. Il business core, quello diciamo delle costruzioni, viene valorizzato praticamente zero. È entrato l'imprenditore Salini, ha cominciato a acquistare dei pacchetti sul mercato, gli altri hanno cercato di arrotondare e si è arrivati a un, diciamo una rivalutazione del titolo che adesso ha una valutazione più fair e diciamo da un punto di vista fondamentale è meno attraente di quello che poteva essere un anno fa. Rimane tuttora la problematica di un controllo non stabile perché entrambe le contendenti hanno percentuali di controllo più o meno analoghe e nessuno dei due sembra avere i mezzi necessari per lanciare un'opera totalitaria per poter ritirare il titolo dal mercato, poter acquistare la maggioranza assoluta. E quando ci sono appunto queste situazioni il mercato ne approfitta per correre ad acquistare questi titoli, comunque è proprio un vortice speculativo quello che sta muovendo probabilmente sì, le quotazioni. Poi c'è stato comunque qualche notizia come quella che anche lo Stato italiano si dovrà adeguare alla normativa europea che impone i pagamenti entro 60 giorni dei crediti nei confronti delle aziende e la Impregilo ha sicuramente delle poste importanti in bilancio che deve ancora incassare dallo Stato italiano. E infatti, c'è stata tutta la problematica del termorevalorizzatore di Acerra che ancora non si è conclusa completamente, quindi diciamo che il titolo è comunque oggetto di un news flow ancora positivo in questo momento, che è la lotta tra i due azionisti principali e adesso si è aggiudicata anche recentemente delle commesse piuttosto prestigiose a livello internazionale come quella della fondazione Niarchos ad Atene, un lavoro di architettura molto complesso firmato dall'architetto Renzo Piano. Sono tutte notizie che hanno diciamo ritirato un po' di attenzione su una società che comunque è leader nel suo settore, un settore un po' particolare perché è soggetto diciamo fortemente allo spending dei governi, però comunque una società leader. O allo non spending, perché questo governo appunto, questo Stato non restituisce quanto deve. Tra l'altro, a proposito del fatto che la pubblica amministrazione non rispetta gli impegni presi con le aziende dopo averne approfittato, appunto naturalmente aver commissionato dei lavori non le paga, più che con Impregilo siamo molto più solidali. Con le piccole e medie imprese io colgo la palla al balzo per ricordare che oggi qui al Sole 24 Ore presenteremo ufficialmente, dopo aver condotto questa battaglia per molti mesi, appunto formalmente l'operazione Disperati Mai. Lo sapete, abbiamo raccolto tante testimonianze di molti imprenditori che ci hanno scritto in condizioni di disperazione reale perché naturalmente non avevano più i soldi per mandare avanti le proprie aziende e quindi anche le proprie famiglie. Queste storie sono state prese da una società di produzione appunto londinese che ne ha realizzato dei cortometraggi che oggi presentiamo qui in anteprima al Sole 24 Ore a partire dalle 18:30. Ci sarà il direttore di Radio 24, appunto Fabio Tamburini, con Sebastiano Barisoni, per cui lo dico sostanzialmente ai milanesi che possono raggiungerci alle 18:30, c'è questo appuntamento qui al Sole. Salvatore Gazziano, ti abbiamo recuperato? Sì, Salvatore, eccoci qua. C'è un ascoltatore, Mauro, che ci ha mandato 2 o 3 mail perché vorrebbe avere questo suggerimento, dimmi che cosa ne pensi. Consideri le azioni italiane sottovalutate al punto da potersi permettere un approccio al mercato italiano attraverso un PAC, un piano di accumulo graduale, visto che Mauro ha un consulente che gli suggerisce appunto di effettuare un'operazione di questo tipo. Che ne dici? La peggiore persona poteva scegliere che me su questo consiglio, nel senso che so che è sempre un grande cavallo di battaglia delle reti, quello dei PAC, di vendere questo concetto della formica che mette da parte e fa media prezzi. Diciamo che noi spesso abbiamo trattato questo argomento su moneyreport.it e questo vale, il concetto vale se le borse hanno fatto quello degli ultimi 20, 30 anni, 40 anni, ma prima degli ultimi 10 che salgono e c'è una prospettiva di salita. Però se uno avesse fatto il PAC, lo abbiamo fatto e dimostrato quando all'inizio degli anni, fine anni 80, inizio anni 90, con la borsa giapponese che è passata da 40.000 agli 7.000, 8.000 attuali del Nikkei, cioè il concetto è sempre semplice e facile, del tipo la borsa come diciamo investimento che ti fa solo guadagnare. Purtroppo non è sempre così e in questi anni anche chi avesse fatto un PAC avrebbe sicuramente contenuto le perdite, ma avrebbe in questi ultimi 10 anni comunque sopportato delle perdite notevoli. Quindi mi sembrano sempre, cioè la borsa ci sta diciamo insegnando, purtroppo la nostra generazione che l'incertezza è molto forte. Prendere delle decisioni in cui ci sembra che ci siano delle ricette facili, tipo diversifico, tipo faccio il pack, e che quelle ci possono dare dei risultati ed essere tranquilli, può essere una soluzione, però dobbiamo essere consci che accettiamo dei rischi che non sono quelli che magari chi ci vende questi prodotti ci fa credere, certo, che abbiamo trovato. E soprattutto abbiamo di fronte degli scenari molto difficili da poter prevedere. In passato anche gli esperti si avventuravano di più e forse con più facilità in scenari, nel disegno appunto di scenari previsionali. Oggi è più complicato, per cui, come dire, quello che è successo nel passato è sicuramente irripetibile, pertanto di fronte al PAC c'è un futuro incerto che potrebbe essere positivo o meno, ma questo vale un po' per tutti i possibili asset sui quali investire. Volevo sentire, prima di far commentare Pierluigi Nodari, che scuoteva un po' la testa sentendo il commento di Salvatore Gazziano sul tema dei PAC, non perché lui credo lo sposi completamente, forse aveva una visione diversa sull'argomento. Ci metto insieme anche la domanda di un ascoltatore, Mirko, altrimenti stamattina non abbiamo sentito nessuno. Mirko, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo condividere la mia visione con voi e avere un parere più autorevole. Secondo me ci sarà una decorrelazione tra gli spread e l'indice azionario, ossia gli spread saranno praticamente, secondo me, sterilizzati e l'indice azionario subirà una fase laterale, insomma, come si dice, di un anno e mezzo. Secondo me si andrà a finire a fine anno, con i primi anni con il primo trimestre del prossimo anno, verso di nuovo i minimi. E purtroppo si andrà a finire in una fase elettorale abbastanza calda, diciamo. E per quello che i PAC in questo caso non sono consigliati, perché si andrà a finire sui 14.000 per poi di nuovo avere un rimbalzo tecnico, per poi di nuovo scendere verso i 12.000 e poi risalire, però si rimarrà secondo me per un anno e mezzo per poi di nuovo riscendere, perché ci sarà un SP500 che stornerà. Purtroppo mi spiace, perché io so che lei è ottimista, ma no, cioè ogni tanto qualcuno degli ascoltatori così si diverte a cercare di interpretare, io cerco di esserlo, perché naturalmente non è che possiamo massacrare tutti i giorni i nostri ascoltatori con appunto le notizie per forza di cose negative. D'altronde abbiamo solo quelle, possiamo far ben poco, cerchiamo di dare una visione confortante, cerchiamo di far vivere serenamente questa condizione problematica per tutti. Poi sul mio ottimismo, io, Mirko, veramente non ho nessuna tipo di considerazione sul futuro, perché non ho nessuna visibilità. Detto questo, invece, Mirko ha disegnato uno scenario pessimo. Nodari, sui prossimi mesi, tra l'altro, ha parlato di una sterilizzazione dello spread, chissà riconducibile a che cosa, forse a queste iniziative della Banca Centrale Europea, una moral suasion anche in questo caso indiretta, anche se non chiederemo nessun tipo di aiuto, però magari il fatto che il cappello della BCE può contribuire a sterilizzare quantomeno il nostro differenziale rispetto alla Germania. Bah, sinceramente non lo so, non sono così d'accordo, nel senso che buona parte delle fortune o sfortune della nostra borsa sicuramente legata un po' all'andamento del paese nel suo complesso e quindi all'andamento del sovrano. Quindi faccio fatica a fare questa decorrelazione, come ha detto l'ascoltatore, ovvero mi immagino che nel caso in cui lo spread paese, cioè lo spread che l'Italia paga rispetto al Bund, alla Germania, dovesse scendere, questo sicuramente secondo me avrebbe un effetto positivo sul mercato azionario. Quindi tutto sommato non sono così negativo, perché non sono così negativo sull'andamento economico del nostro paese. Sicuramente la fase attuale è una fase di grande difficoltà che non si risolverà nell'arco di pochi mesi. Siamo, come dire, nel bel mezzo di una riduzione della spesa, quindi di un piano di austerity, e non c'è da immaginare una crescita sicuramente nei prossimi 12 mesi o forse 24. Tuttavia il mercato in genere sconta sempre tutto molto in anticipo, quindi non vorrei che, di fatto, considerato che i portafogli azionari sono particolarmente scarichi, il mercato cominciasse a ragionare in termini diversi, cioè dicesse: questo è un paese che lentamente sta rientrando in carreggiata e forse vale la pena comprare quei titoli che sono forse oggi più deboli. Volevo far fare solo un ultimo commento a Roberto Contini, perché abbiamo pochissimi istanti, però gli chiedo se magari un buon approccio sul mercato azionario potrebbe essere quello di farlo individuando le società che hanno buone remunerazioni, visto che i dividendi per fortuna non tutte li hanno cancellati. Contini. Sì, sicuramente la politica dei dividendi è un elemento, diciamo, della valutazione delle aziende al momento di investire. Purtroppo spesso si è, diciamo, colpiti dalla percentuale di dividendo sul prezzo, quindi dal rendimento. Certo. Quello che bisognerebbe guardare è la capacità di crescita del dividendo in futuro delle aziende, quindi la capacità di pagare dividendi sempre più alti. Le aziende italiane che hanno una storia positiva in questo senso sono molto poche. Poi posso paragonare l'ENI, una che ha sempre incrementato il dividendo in maniera piuttosto... Dobbiamo chiudere? Sì. Quindi l'importante è fare una selezione come una per selezione tutte le cose. Titoli, certo, guardare le prospettive di crescita e in funzione la politica dei dividendi diciamo affiancata alle prospettive di crescita, certo, non soltanto il dividendo in termini percentuali. Infatti, per non cadere nella trappola del cedolone, come la chiamava il collega del Sole 24 Ore Fabio Pavesi. Grazie Roberto Contini, d'accordo. Salvatore Gazziano e Pierluigi Nodari. Noi ritorniamo domani, c'è con voi Simone Spezia a Salvadanaio. Io torno lunedì, a tutti buon fine settimana.